In te una rosa ho seminata e adesso è qui, adesso è nata tempo in questo tempo che ha bisogno più di vita che di sogno, più di gioia che di pianto. Canterò guardando la rosa che diventa grande e nei silenzi traditori, servitori dell'inganno, deve ser pura come il grido più profano, come un gesto di perdono che possa nascere ogni giorno senza avere nostalgia ed abbia per maestra sempre l'allegria. Vorrei che il mondo lo guardasse come me, il frutto benedetto che ho raccolto in te.